E allora, buonasera, bentrovati e bentrovati a tutti e a tutti, un particolare abbraccio a chi ci ascolta privato della propria libertà personale. Siamo a Entropia Massima, la trasmissione del lunedì tra le 8 e le 9, e questa sera il tema che vi abbiamo preparato è economia e ambiente. Siamo, come di consueto, in compagnia di Alberto, che ci ha preparato una puntata, e gli lascio quindi subito la parola per entrare nel vivo degli argomenti che vedremo stasera. Sì, allora posso? Sì, vai pure. Allora, stasera finalmente, devo dire che siamo un po' in ritardo da questo punto di vista, parliamo della COP23, cioè in sostanza è la mega assemblea dell'ONU con 195 paesi presenti, che sono già appunto 23 volte che si incontrano e si occupano di ambiente, quindi già sono alcuni anni che è operativa. Ed è il punto, cioè il punto della struttura dell'ONU in cui si è fatto l'accordo del dicembre 2015. Cioè l'accordo sul clima, quindi in sostanza è il punto dove l'ONU cerca di organizzare le reazioni contro il cambiamento climatico, con alcune difficoltà di cui cercheremo di dare conto. Noi nelle precedenti trasmissioni abbiamo parlato dell'accordo, dei limiti di questo accordo, delle difficoltà incontrate e quelle che si sarebbero incontrate, e oggi ci troviamo con i resoconti di questa numero 23, cioè sono state altre due dal 21 al 22 e 23, e dobbiamo cercare di far capire che cosa sta succedendo, partendo da un qualcosa che poi chiariremo meglio, che nei due anni che sono passati dall'accordo, questa è la prima osservazione, gli eventi drammatici, gli eventi estremi come vengono definiti, quindi i cicloni, le alluvioni eccetera, si sono moltiplicate e sono aumentate di intensità. Quindi di fatto questa assemblea si inserisce in un contesto che è peggiorato rispetto al momento della conclusione del piano. E Alberto, che poi sono i temi che abbiamo toccato nelle altre puntate. Noi siamo aggiornati. Quello che è un po' difficile da far capire è come si svolge questa, un'atmosfera un po', come dire, rarefatta, no? Un po' molto istituzionale, e quindi bisogna capire esattamente il ruolo che ha, che portata ha e via dicendo. Però stiamo parlando del clima e quindi del problema fondamentale del contesto ambientale. Allora, questo è il tentativo che faccio stasera, quindi, è cercare di, dando anche la mia opinione ovviamente, però cercare di far capire qual è la portata effettiva di quello che sta succedendo a scala internazionale. Allora, la prima osservazione che si può fare è questa: tutti sapevano, almeno nei testi che ho visto in questi giorni, che era questa COP23 tenutasi a Bonn in Germania, era una assemblea di transizione, cioè in sostanza, quando si usa questa parola, diciamo, nelle organizzazioni internazionali, significa che non ci si aspettava grandi decisioni, ma si cercava, quindi insomma partivano già male come passo falso iniziale, perché invece quando vogliono prendere delle decisioni ci riescono molto bene, sì, però appunto le sedi sono altre, le tecniche sono altre, cioè questo è livello istituzionale, quindi si sapeva, e quindi nessuno è rimasto sorpreso dal fatto che in effetti non sono uscite ancora delle novità significative e sostanziali. Però qualcosa è successo, e quindi cercherò di farlo emergere, non per salvare l'anima dei governi confluiti a Bonn, ma semplicemente perché la situazione climatica è talmente drammatica che dobbiamo tener conto anche del livello istituzionale, cioè non possiamo trascurarlo. Allora, durante questi 15 giorni di intensi lavori, Che cosa è successo? Hanno, la definizione viene data, e hanno precisato norme e obiettivi. Precisato significa che hanno, non so, tentato di dare le gambe a quello che è stato messo nell'accordo del dicembre 2015. Però contemporaneamente si può vedere che gli interventi vanno a rilento. Questo è un giudizio che viene dato da alcuni commentatori, insomma, che hanno seguito bene tutti i 15 giorni di lavori, e si vede che ancora, come dire, il grado di maturazione in termini di interventi concreti contro il cambiamento climatico e ancora non sono emersi con la dovuta forza, con la dovuta precisione, soprattutto non sono operativi. Quindi questa è una prima valutazione. Quello che si è però precisato è che è partito una specie di dialogo, cioè delle procedure interne che dovrebbero portare a verificare gli impegni assunti da tutti i paesi, perché in effetti prima di Parigi, dell'accordo di Parigi, tutti i paesi hanno mandato un rapportino in cui assumevano degli impegni contro il clima, contro il cambiamento climatico, per modificare il clima, eccetera. Solo che prima di cominciare l'incontro a Parigi, abbiamo parlato a lungo di questo, hanno fatto le segreterie dell'ONU, hanno fatto un rapido calcolo, e solo con gli impegni, come dire, volontari e lasciati ognuno al libero arbitrio del singolo paese, e si arrivava a 3,5 gradi abbondanti, 3,7, quindi fuori di qualunque obiettivo, quindi rischiosissimo, eccetera. Quindi la situazione non è cambiata nel frattempo, perché non sono stati modificati questi testi e questi obiettivi di singolo paese, però si è cominciato a precisare i tempi in cui devono essere modificati. Modificato significa che questa volta l'impegno è serio, non sarà ancora vincolante, ma sarà serio. Serio significa che ogni impegno dovrà essere accompagnato da degli interventi concreti che devono essere o già partiti o stare per partire, quindi non previsioni lanciate avanti 2030, 2040, 2050, ma chiuderò 3 impianti fra 6 mesi, no? Perché la mia impressione, così, anche se non l'ho seguito sempre con attenzione, è che in realtà ci sia stato un po' sempre questo palleggiare in avanti, riportare sempre un pochino, certo, più avanti il discorso, no? Invece bisogna però tener conto che c'è una cosa che, sempre tenendo conto del livello internazionale, questi credevano, quando è stato fatto l'accordo, che ci sarebbero voluti almeno un paio d'anni per arrivare alle ratifiche degli impegni, cioè tutti avevano firmato il testo, però poi doveva essere ratificato dai singoli governi. Questi governi, chi più rapidamente, chi meno rapidamente, insomma, entro meno di un anno lo hanno firmato, e quindi è entrato in vigore l'accordo in tempi che loro prevedevano più lunghi. Cioè, in sostanza, quello che ci avevano in mente a Parigi era che avrebbero cominciato a diventare operativi intorno al 1920. Non so se, ecco, il fatto che si cominci invece a mettere, come dire, i piedi sotto il tavolo e cominciare a decidere gli interventi concreti nel 2018 non è un'accelerazione, ma insomma hanno guadagnato un po' di tempo rispetto ai ritardi in corso. No, non è il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto, sto dicendo che queste sono le logiche internazionali, cioè prima di mettere in moto una macchina dove tutti noi 195 paesi devono lavorare in maniera compatta e allineati, ci vorrà del tempo. Tant'è vero poi che nel frattempo, se vi ricordate, di questo ne abbiamo parlato, è andato al governo il presidente Trump, il quale tra le primissime cose ha deciso che si tirava fuori da questo accordo. Siccome gli Stati Uniti sono il secondo paese più inquinatore, cioè circa il 25-30% dell'inquinamento dipende dagli Stati Uniti, Penso sia abbastanza intuitivo capire che tutti gli impegni degli altri o devono essere molto più gravosi oppure devono fare uno sforzo mostruoso per costringere gli Stati Uniti a rispettare almeno una parte dei suoi impegni. Quindi in sostanza stanno affrontando un po' in anticipo rispetto ai ritardi previsti, e però i problemi, siccome si è visto, poi insomma sono stati nascosti dalle posizioni del presidente precedente, e mentre questo invece sta seguendo una logica completamente diversa. E quindi l'altro elemento che direi positivo decisamente è l'IPCC, cioè questo panel dei 2500, questo comitato dei 2500 scienziati che lavora già da 20 anni, e quindi hanno presentato prima di Parigi il quinto rapporto e dovrebbero presentare il sesto, diciamo, alla fine di quest'anno. Però hanno promesso a Bonn, cioè durante questo incontro COP23, che presenteranno un rapporto speciale su a che punto stanno gli interventi, quindi non più l'analisi delle previsioni, delle tendenze del sistema, del pianeta, eccetera, ma a che punto stanno gli interventi, cioè fare un po', costringere tutti i paesi in qualche, e questo dovrebbe uscire tra settembre e ottobre 2018. Allora, questo, siccome è il massimo livello scientifico a livello internazionale, bla bla bla, insomma è abbastanza interessante che questi si stanno impegnando e stanno prendendo un po' in mano la situazione in termini di verifica degli impegni governativi, cioè a livello scientifico sta, come dire, prendendosi delle responsabilità. Quindi in questo senso c'è qualche elemento di novità. E attenzione, questo rapporto speciale non prende più come obiettivo i 2 gradi, ma parla di 1,5 gradi, quindi del secondo obiettivo che era stato indicato. Si era detto faremo il possibile per arrivare per non superare 1,5 gradi, e questo invece dicono noi stiamo già lavorando su 1,5 gradi, perché evidentemente la situazione oggettiva è molto peggiore di quella che si vedeva o si voleva vedere a Parigi, e quindi il rapporto sarà in questa chiave. Poi parte questo dialogo che c'ha il nome di certe isole del Pacifico, insomma, perché la presidenza è stata fatta a Bonn in Germania, ma il presidente era delle isole Figi, perché sono le isole che stanno già sotto acqua, e quindi l'hanno messi lì dicendo protestate, fate, cioè, gestitelo in maniera tale che le vostre esigenze in quella zona già arrivate a scadenza, non devono fare previsioni, e possano essere rispettate. E quindi questi pensano che nel prossimo incontro che si farà in Polonia saranno fissate le linee guida dell'accordo di Parigi. Cioè l'accordo era un testo, come posso dire, giuridico istituzionale. Con questo tipo di contatti che saranno svolti durante quest'anno cercheranno di stabilire le linee guida, cioè come si devono precisare gli impegni di ciascun governo, quali sono i tempi che devono essere rispettati. Allora io non sono così ottimista, nel senso che tutti 195 paesi in 9 mesi faranno, eccetera, però si comincia a scendere dal piano giuridico istituzionale a un piano più operativo. Beh, insomma, sicuramente notizie migliori del solito. Prendiamoci una piccola pausa musicale, vi faccio ascoltare un pezzo di Judas Priest, Breaking the Law, in una versione dei Firewind. E allora ritorniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 è il numero per intervenire. Questa è Entropia Massima, stiamo parlando di economia e ambiente con Alberto, e riprendiamo dunque da dove ci eravamo interrotti. Spero che questo è per capire, diciamo, l'atmosfera e il punto a cui siamo arrivati. Adesso vediamo i singoli interventi di cui si è parlato. Il primo è stato confermato, quell'impegno che si rimbalza già da alcuni anni sui documenti internazionali, cioè i paesi più industrializzati si sono impegnati a dare 100 miliardi di dollari ogni anno a favore dei paesi sottosviluppati, che dovranno fare tutta una serie di interventi per adeguarsi alla situazione climatica, eccetera. A tutt'oggi però, anche incluso Bonn, è stato rinnovato l'impegno generale, però poi quando si è visto, quando hanno fornito alcuni dati, c'è un rapporto con alcuni dati, eccetera, e i fondi che sono finora pervenuti a questo scopo, diciamo, cioè i governi che hanno mandato indicando questo scopo di raggiungere i 100 miliardi, sono poche decine di milioni di dollari, cioè stiamo veramente ancora in alto mare. E è ovvio il motivo, è ovvio che però per i paesi sottosviluppati dicono o c'è quel fondo oppure noi non riusciamo nemmeno a muoverci, e quindi questo è evidentemente un ostacolo molto preciso. Poi c'è un secondo aspetto. Questo è nuovo, cioè questi dati adesso sono un po' nuovi, perché si chiama, è un filone, una linea di lavoro della COP, che si chiama danni e perdite. Cioè in sostanza stanno cominciando a fare una valutazione globale, quindi per tutti i paesi, su quali sono stati i danni arrecati dagli eventi nefasti tipo cicloni, eccetera, eccetera, e le perdite, quindi non solo le perdite umane, ma l'ammontare complessivo dei danni all'apparato produttivo, al sistema agricolo, eccetera. E in particolare sul settore agricolo, che finora era stato un po', come posso dire, tenuto da parte, perché i danni erano molto forti e tutti avevano difficoltà a dichiararli. E le cifre sono interessanti. Le cifre sono probabilmente fra 50 e 200 miliardi di dollari all'anno, e con ogni probabilità sono più di 200 miliardi. E qui ho visto la scorsa trasmissione, abbiamo parlato, credo, la scorsa o quella precedente, è solo quello che è successo negli Stati Uniti, era più di 50 miliardi di dollari negli ultimissimi due cicloni, no? E non erano stati quantificati i danni alle imprese, alle miniere, ai pozzi di estrazione del petrolio, eccetera. Quindi solo danni diretti, non danni, diciamo, indiretti. No, dovrebbe essere tutto, cioè quello che dipende da quel tipo di evento. Cioè c'è stata un'alluvione, l'acqua, quindi se una casa è andata giù o se quella è in tutti i mobili, quelli sono danni diretti, insomma, non so indiretti cosa potrebbero essere, che questi eventi qua, insomma, fanno certi danni ben precisi. Quelli a cui alludevi tu, quelli che riguardano l'economia, le imprese? Sì, però le imprese significa che sto parlando delle imprese che avevano gli impianti e l'hanno dovuti chiudere perché erano pieni d'acqua oppure il vento aveva sradicato le palette, insomma, no? Cioè voglio dire tutto quello che è fisicamente stato distrutto. E questa cosa, quindi questa cifra è sicuramente sottostimata, anche quella massima, diciamo, dei 200 miliardi. E dall'altra parte, sempre negli ultimi due anni, cioè mentre loro facevano questi calcoli, i vari fenomeni estremi si sono accelerati e sono peggiorati, cioè sono diventati più potenti, cioè i venti erano più veloci, eccetera. Quindi come posso dire, la media dell'anno prossimo sarà sicuramente di più di 200 dei danni arrecati da questo evento. E quindi questo, però, per la prima volta stanno cercando di far capire, perché qui dietro c'è un ragionamento economico molto importante, dobbiamo riuscire a capire, cioè tutti i governi dovrebbero riuscire finalmente a capire che conviene fare degli interventi per modificare il clima, cioè contro la modifica del clima e per farlo ritornare in equilibrio, piuttosto che affrontare il pagamento dei danni arrecati da questi eventi, che sembra un discorso banale, ma che però a oggi è fuori dalle logiche governative. Cioè questo tipo di rapporto con i danni del proprio paese e della propria popolazione non è mai stato fatto. Si dice, sì, se ne parla, figuriamoci, però poi il calcolo non viene fatto. E soprattutto, e quindi questo fatto che non viene fatto significa un problema che non viene fatto. Significa anche ormai di fare i calcoli di quanto si potrebbe stanziare in favore dell'ambiente e via dicendo, quindi è tutto, rimane ancora un po' vago, però ripeto, è la prima volta che sono usciti questi. E un terzo punto è particolarmente importante politicamente anche e soprattutto dalla nostra ottica, si chiama piattaforma dei popoli indigeni, e in questo testo è chiaramente deciso, questo è deciso, cioè è stato approvato, i nativi, quindi le popolazioni indigene eccetera, devono partecipare agli incontri relativi al clima. Può sembrare una banalità, ma non sono governi, non so se è chiaro, e però si è detto, tenendo conto del fatto che sono quelli che poi subiscono maggiormente certi danni e via dicendo, hanno diritto a partecipare come popoli indigeni. No, scusatemi, forse tra di noi, per noi è scontato, perché sono molte volte le nostre controparti in Africa o in America Latina, e il problema è che ci sono dei governi che invece li considerano dei selvaggi da sterminare e cose del genere. Insomma, non basta parlare della Birmania o insomma di qualunque altro paese. Quindi un'altra buona notizia, diciamo. Beh, insomma, dal punto di vista, questa è una notizia molto politica, devo dire, cioè, però è importante perché significa che accanto ai governi ci saranno i rappresentanti dei popoli indigeni. Un quarto punto è un piano d'azione di genere, si chiama familiarmente GAP, cioè Gender Action Plan, che prevede una maggiore partecipazione, è carina la definizione, una maggiore partecipazione delle donne e dei gruppi di genere. È un po' vago, ma evidentemente apre a tutti gli altri sessi, diciamo. E però c'è un piano d'azione, cioè per assicurare questa partecipazione, per garantire la partecipazione. Ancora, altro settore, altro elemento che è stato abbastanza deciso, si è cominciato a parlare di cibo e agricoltura, o agricoltura e cibo, cioè in sostanza si è cominciato a rendersi conto che da un lato il cibo e l'agricoltura, cioè è il secondo settore che crea gli squilibri climatici dopo l'energia. Quindi in ordine di importanza quantitativa è primo energia, secondo la parte agricoltura. Quindi tutte le emissioni, tutti gli inquinamenti che vengono realizzate in agricoltura e quindi che danneggiano il cibo, l'alimentazione, e sono tutti, per la prima volta vengono evidenziati, cioè gli si dà un'attenzione particolare perché è il secondo settore. E quindi anche questo significa spostare un po' le ottiche, cioè di cominciare a occuparsi di cose che non è solo il petrolio, ma ci stanno altri problemi. Ancora, c'è un piano specifico con una scadenza 2020, cioè fra 3 anni, quindi diciamo per i tempi internazionali piuttosto accelerato, diciamo, che è un piano per le popolazioni delle isole del Pacifico. Quindi siccome da un punto di vista logico è ovvio, nel senso che quelli stanno già andando sott'acqua, quindi insomma intervenire subito sarebbe la cosa più logica, no? Però per fortuna hanno fatto un piano specifico, cioè questo parte, non posso dire indipendentemente dai paesi, ma indipendentemente dalle scelte dei governi, cioè la scelta sarà effettuata in sede ONU e l'ONU deciderà che piano una certa serie di interventi debbano essere realizzati. Poi un ulteriore accordo è stato raggiunto su una cosa che si chiama la partnership di Marrakesh. Marrakesh è la città dove è stata fatta la COP22, e partnership significa la partecipazione, la condivisione, e significa mettere insieme imprese, investitori, città, regioni e società civile. Quindi in sostanza tutta questa storia a livello ONU sta cercando di coinvolgere entità che non sono governi e quindi dovranno dare voce alla società civile, cioè, che è molto importante. È un po', come posso dire, è un riconoscimento, cioè non è niente di più di tanto, però tra non essere filati per niente, cioè che proprio nessuno ti si fila, e invece essere riconosciuti e avere voce in capitolo, c'è una differenza. Non è risolutiva probabilmente, ma insomma è importante averla. E allora facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamo un'altra cover, stavolta ci spostiamo sugli anni 80, Big in Japan, una versione dei Guano Apes. All around my head in the wind, I'm no illusion. E allora torniamo in diretta per l'ultimo terzo di trasmissione. Siamo ad Entropia Massima, stiamo parlando della COP23 di Bonn con Alberto. Gli cedo subito la parola per il finale. Altre due aspetti. Alcuni sembrano decisioni embrionali, ma forse segnalano il fatto che si sta cambiando un po' l'atmosfera. In pratica si chiama addio al carbone, quest'ultimo punto, penultimo, ultimo punto, cioè c'è stato un patto tra il Canada e l'Inghilterra di arrivare alla eliminazione del carbone entro il 2025. Allora, siamo ancora, però per la prima volta non è una previsione, è un patto, cioè stanno decidendo misure concrete i due governi su questa strada, che è la strada maestra per cominciare a ridurre le emissioni di CO2, e hanno intenzione di di estendere questa operazione intergovernativa, quindi non ONU in senso stretto, perché è un settore che deve essere affrontato immediatamente, perché altrimenti non ci si fa. Quindi questo è un punto importante. E questa cosa mi permette di introdurre un altro punto di vista. Questa ho finito, cioè la parte, come posso dire, di sostanza che si riesce a tirar fuori dai resoconti di questa mega organizzazione qual è l'ONU, in particolare questa per l'ambiente. Quindi, come vedete, sono tutte indicazioni sufficientemente positive, e ancora non è cominciato l'impegno concreto, se vogliamo stringere un po' sulla valutazione. Quindi, mentre invece, come è stato sottolineato in tutte le fonti, gli eventi stanno peggiorando, accelerando, eccetera. Questo l'altro punto che volevo invece citare, che è importante, cioè durante questo periodo a Bonn, in particolare intorno al 9, 10, 11 novembre, ci sono stati degli interventi esterni, però che sono stati fatti uscire delle interviste, a un personaggio estremamente importante, che è questo James Hansen, cioè questo meteorologo iniziale, poi è diventato un glaciologo, insomma è probabilmente una delle persone che più sa sul clima, che ha fatto dei lavori estremamente importanti e soprattutto dal 1982 sta denunciando la crisi climatica, e tutti i danni che lui ha individuato negli anni successivi si sono tutti puntualmente realizzati. Quindi è uno che conosce la situazione esistente e però contemporaneamente è in grado di fare delle indicazioni operative. Aveva poi come personaggio molto interessante, perché era il responsabile del settore meteorologico della NASA, quindi parlava da un livello estremamente alto, di competenza, e finché a un certo momento ha contattato tutti i presidenti americani, ha protestato, ha fatto eccetera eccetera, ottenendo scarsi risultati. Insomma, a un certo momento si è messo dentro un'università e ha cominciato a scrivere, a fare dei progetti di studio e di ricerca molto avanzati, che mettono, attenzione, addirittura in discussione i lavori del comitato degli esperti, del comitato degli scienziati, perché hanno usato dei modelli matematici eccetera più elaborati e delle fonti che non sono state tenute presente in quella sede. Quindi è una voce, come posso dire, un po' isolata, però che ha uno spessore scientifico estremamente elevato. Nessuno può giudicare su questi problemi, cioè metterci la mano sul fuoco su queste cose, perché non tutti conoscono il bene nell'ambiente, però questo, ha 40 anni di previsioni azzeccate, no? E quindi è molto quello che dice, insomma, è da tenere presente come minimo, è molto importante. E allora quello che lui ha fatto un documento che è stato poi, appunto, facendo questa intervista, lo ha portato durante l'intervista, dove ci sono più di 13 interventi da fare. E la sua priorità, quella che sottolinea in maniera netta, senza esitazioni, è il carbone. Quindi lui dice assolutamente bisogna cominciare subito, bisogna eliminarlo subito. Quindi ha preso un atteggiamento che posso dire in completa contrapposizione rispetto alla tecnica dell'ONU e alla scelta di lavorare a livello internazionale. Però ovviamente lui è un gruppo di scienziati, quindi insomma dal punto di vista politico è molto noto e molto conosciuto e riconosciuto, e però è in netta opposizione, soprattutto essendo un libero pensatore da questo punto di vista. Non c'ha le difficoltà che incontra l'ONU con le industrie, con le multinazionali e via dicendo. Però è molto importante questa sua decisione di denunciare con estrema chiarezza e come priorità assoluta il discorso del carbone. Quindi è collegato al discorso Canada-Inghilterra, perché per la prima volta c'è una specie di connessione tra l'impostazione della scienza più avanzata e almeno due governi, almeno due su 195, e con gli Stati Uniti che si tirano indietro, cioè i rapporti di forza sono ancora estremamente non positivi, diciamo molto negativi. Però è molto importante che piano piano si comincia a affrontare il problema nelle sue dimensioni effettive. In realtà perfino l'Italia nel SEN, cioè nel documento sulla la strategia per l'energia, che è stato approvato di recente, si prende un qualche impegno abbastanza concreto di eliminare l'utilizzo del carbone entro il 2025, quindi in tempi abbastanza stretti, nel senso che per arrivarci entro quella data bisogna cominciare subito. Perché noi abbiamo ancora impianti a carbone gestiti dall'Enel, insomma stiamo ancora aprendo delle miniere a livello internazionale, in Australia hanno aperto delle nuove miniere di carbone, cioè il mondo non va nella direzione giusta, ovviamente, no? Però queste prese di posizioni così nette sono l'elemento più importante da sottolineare, e noi dovremmo, come dire, non dico non solo sostenerle, ma insomma prenderle come metodo di lavoro, come indicazione di priorità anche politica, insomma, cioè delle richieste da fare. Bene, allora siamo giunti al termine della puntata, e nel salutare tutti e tutte vogliamo ricordare che la radio non campa d'aria e soprattutto è di chi se la sente, cioè di tutti e tutte noi, quindi facciamo un invito a sottoscrivere. Trovate sul sito tutti i riferimenti, dal bollettino postale al PayPal, ce n'è un po' per tutti, e ci diamo quindi appuntamento con Entropia Massima al prossimo lunedì. Un abbraccio e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Onda Rossa.